Pippi si trasferisce a Villa Colle. C'era, alla periferia della minuscola città, un vecchio giardino in rovina. Nel giardino c'era una vecchia casa e nella casa abitava Pippi Calzelunghe. Aveva 9 anni e abitava lì tutta sola. Non aveva né mamma né papà. E in fin dei conti questo non era poi così terribile, se si pensa che nessuno poteva dirle di andare a dormire proprio quando si stava divertendo di più, o propinarle l'olio di fegato di merluzzo quando invece lei avrebbe desiderato delle caramelle. C'era stato veramente un tempo in cui Pippi aveva un papà, al quale voleva un monte di bene, e sì, naturalmente anche una mamma, ma erano passati così tanti anni che di lei non riusciva a ricordarsi. La mamma, infatti, era morta quando Pippi era una bambina piccina, che stava nella culla e strillava in maniera così raccapricciante che nessuno resisteva a rimanerle vicino. Pippi era convinta che la sua mamma se ne stesse ora seduta in cielo e guardasse la sua bambina col cannocchiale attraverso un piccolo foro. E così aveva preso l'abitudine di fare un cenno di saluto verso l'alto dicendo: «Non stare in pensiero per me, io me la cavo sempre». Ma suo padre Pippi non se l'era scordato. Era capitano di marina e navigava per il vasto mare. Pippi gli era sempre stato accanto sulla nave finché un giorno, durante un temporale, lui era volato via ed era scomparso. Pippi però era sicurissima che una volta all'altra il suo papà sarebbe ritornato. Il pensiero che potesse essere annegato non la sfiorava nemmeno. Era invece convinta che le onde lo avessero sospinto a terra e precisamente in un'isola popolata di indigeni. Lì suo padre era diventato il loro re e per tutto il giorno camminava su e giù con una corona d'oro sulla testa. Un angelo per mamma e un re di una tribù per papà. Non capita davvero a tutti i bambini di avere dei genitori tanto distinti, diceva Pippi soddisfatta. E appena il mio papà si sarà costruito una barca mi verrà a prendere e così diventerò una principessa. Urrà! Allora sì che ci divertiremo. Era stato proprio il padre di Pippi a comprare quella vecchia casa in mezzo al giardino, moltissimi anni prima. Contava di andarci a vivere con Pippi quando fosse diventato troppo vecchio per continuare a navigare. Ma poi gli era capitata quella stupida cosa di volare in mare e Pippi, in attesa di vederlo ricomparire, decise di stabilirsi a Villa Colle. Quello era infatti il nome della casa, che, ammobiliata e perfettamente sistemata, non attendeva che il suo arrivo. Era una bella sera d'estate quando Pippi disse addio all'equipaggio della nave di suo padre. I marinai le volevano un gran bene e un gran bene voleva a loro Pippi. «Addio ragazzi!» disse Pippi e li baciò uno ad uno in fronte. «Non state in pensiero per me, io me la cavo sempre!» Dalla nave prese per sé 2 cose. Una scimmietta, che si chiamava Signor Nilsson, regalatale del suo papà, e una grossa valigia piena di monete d'oro. Dal ponte della nave i marinai seguirono Pippi con lo sguardo finché la videro scomparire. Lei se ne andò dritta, senza voltarsi indietro, col signor Nilsson su una spalla e la valigia in mano. «Che bambina straordinaria!» disse uno dei marinai e si asciugò una lacrima quando Pippi scomparve. E aveva ragione. Pippi era davvero una bambina straordinaria. La cosa più eccezionale in lei era la sua forza. Era così tremendamente forte che in tutto il mondo non esisteva un poliziotto che fosse forte quanto lei. Poteva benissimo sollevare un cavallo se lo voleva. E lei voleva. Aveva un cavallo tutto suo, comperato con una delle sue tante monete d'oro il giorno stesso del suo arrivo a Villa Colle. Aveva tanto sognato di averne avuto, di averne uno tutto per sé. E ora il cavallo abitava in veranda. E quando Pippi desiderava bersi il suo caffè pomeridiano, semplicemente lo sollevava e lo depositava in giardino. Vicino a Villa Colle c'era un altro giardino e un'altra casa. In quella casa abitavano un papà e una mamma con i loro 2 graziosissimi bambini, un maschio e una femmina. Il ragazzo si chiamava Tommy e la bambina Annika. Erano 2 bambini molto gentili, ben educati ed obbedienti. Mai che Tommy si mangiasse le unghie o si sognasse di non fare quello che la mamma gli chiedeva. Quanto ad Annika, non si metteva a strillare quando non riusciva ad averla vinta. E se ne andava sempre in giro tutta pulitina con dei vestiti di cotone perfettamente stirati che stava bene bene attenta a non sporcare. Non che Tommy e Annika non giocassero bene insieme nel loro giardino, ma spesso avevano provato il desiderio di un compagno di giochi. E quando ancora Pippi navigava per i mari col suo papà, a volte, aggrappati allo steccato, si dicevano: è assurdo che nessuno si trasferisca in quella casa. Qualcuno dovrebbe andarci ad abitare. Qualcuno con dei bambini. Quando quella bella sera d'estate Pippi varcò la soglia di Villa Villacolle, Tommy e Annika non si trovavano in casa. Erano andati a passare una settimana dalla nonna. Perciò non sospettavano nemmeno lontanamente che qualcuno fosse venuto a vivere nella villa accanto. Mentre pensavano a cosa fare e se c'era speranza di divertirsi quel giorno o se sarebbe stata una di quelle giornate disgraziate in cui non si inventa nulla, proprio allora il cancello di Villa Villacolle si aprì e ne uscì una ragazzina. Era la più curiosa bambina che mai Tommy e Annika avessero visto. Era Pippi Calzelunghe che iniziava la sua passeggiata mattutina. I suoi capelli color carota erano stretti in due trecce, dritte in fuori. Il naso pareva una patatina ed era tutto spruzzato di lentiggini. E sotto il naso si apriva una bocca decisamente grande, con due file di denti bianchissimi e forti. Il suo vestito era molto originale. Pippi se l'era cucito da sola. Veramente la sua idea sarebbe stata di farlo blu, ma poi, siccome la stoffa non le bastava, ci aveva applicato qua e là delle toppe rosse. Un paio di calze lunghe, una marrone e l'altra nera. Le copriva le gambe. Per non parlare delle sue scarpe nere, lunghe esattamente il doppio dei suoi piedi, gliele aveva comprate il suo papà nel Sud America. Grandi così perché i piedi di Pippi potessero crescervi quanto volevano, e lei non ne aveva mai indossate altre. Ma ciò che fece proprio sbalordire Tommy e Annika fu la scimmia che sedeva tranquillamente su una spalla della bambina sconosciuta. Era una scimmia da circo che indossava pantaloni blu e una giacca gialla e portava in testa una paglietta bianca. Imperturbabile, Pippi proseguì per la sua strada. Camminava con un piede sul marciapiede e l'altro nel rigagnolo. Finché fu possibile, Tommy e Annika la seguirono con lo sguardo ed ecco, dopo un attimo, la videro ritornare camminando all'indietro. Così non aveva bisogno di voltarsi per arrivare a casa. Giunta davanti al cancello di Tommy e Annika, Pippi si fermò. Un lungo sguardo corse tra i bambini in silenzio. Infine Tommy disse: «Perché cammini all'indietro?» «Perché cammino all'indietro?» esclamò Pippi. «Forse non viviamo in un paese libero? Ognuno non può camminare come più gli piace?» «A ogni modo sappi che in Egitto tutti camminano così e nessuno ci trova nulla di strano, eh?» «E tu come lo sai?» chiese Tommy. «Tanto non ci sei mai stata in Egitto.» «Se sono stata in Egitto, ma certo, puoi giurarci!» «Dappertutto sono stata. Nel globo terrestre ne ho viste di assai più buffe che gente che cammina all'indietro. Mi domando che cosa avresti detto allora se mi fossi messa a camminare sulle mani, come si usa nell'India orientale.» «Questa è una bugia bella e buona», osservò Tommy. Pippi ci pensò su un secondo. «Hai ragione, ho proprio detto una bugia», ammise avvilita. «Mentire è bruttissimo», aggiunse Annika, che solo ora osava aprir bocca. «Sì, mentire è proprio orribile», convenne Pippi, sempre più avvilita. «Ma capisci, io ogni tanto me lo dimentico. Come si può pretendere che una povera bambina piccina, con un angelo per mamma e un re per papà, e che non ha fatto altro per tutta la vita che navigare i mari, possa dire sempre la verità, del resto?» E mentre diceva questo, il visino punteggiato di lentiggini le si illuminò tutto. «Voglio che sappiate che nel Congo belga non esiste una sola persona che dica la verità. Tutto il giorno non si fa altro che dire bugie. Si comincia alle 7 di mattina e si smette al tramonto. Così, se qualche volta mi capita di mentire, cercate di scusarmi. Dipende unicamente dal fatto di essere rimasta un po' troppo tempo nel Congo belga. Ma saremo amici lo stesso, vero?» «Naturale!» esclamò Tommy. E all'improvviso si rese conto che quella non sarebbe stata davvero una giornata disgraziata e noiosa. «Che cosa ne pensate di venire tutti a fare merenda da me?» propose Pippi. «E perché no?» disse Tommy. «Niente in contrario. Andiamoci subito.» «Sì, sì, subito!» esclamò Annika. «Prima di tutto devo presentarvi il signor Nilsson», disse Pippi. E qui la scimmietta si levò il cappello e salutò molto educatamente. Così entrarono dal cancello sgangherato di Villa Villacolle, salirono i gradini del viale fiancheggiato da vecchi alberi coperti di muschio, alberi su cui ci si poteva arrampicare stupendamente, finché giunsero alla villa e si trovarono nella veranda dove il cavallo stava mangiando tranquillo dell'avena da una zuppiera. «Ma come? Tieni un cavallo nella veranda?» chiese Tommy. tutti i cavalli di sua conoscenza abitavano in una stalla. Proprio così, confermò Pippi pensosamente. In cucina darebbe fastidio e in salotto non si trova a suo agio. Tommy e Annika fecero una carezza al cavallo e poi entrarono nella casa, che comprendeva una cucina, un salotto e una stanza da letto. Pareva che Pippi quella settimana avesse dimenticato di fare le pulizie. Tommy e Annika si guardarono attentamente in giro, sperando che il re, a quale Pippi aveva accennato, se ne stesse seduto in qualche angolo. Ma non comparendo né un papà né una mamma, Annika domandò, leggermente inquieta: «Abiti qui tutta sola?» «No, certo», disse Pippi. «Il signor Nilsson e il cavallo vivono con me». «No, volevo dire, non hai né mamma né papà». «Nemmeno un pezzettino», rispose Pippi allegramente. «Ma allora chi ti dice quando devi andare a letto di sera e cose simili?» chiese Annika. «Ma lo dico da sola», spiegò Pippi. «Prima con le buone. E se non obbedisco, me lo dico un'altra volta, più severamente. E se continuo a non voler obbedire, allora finisce a sculacciate». Non si può dire che Tommy e Annika trovassero la cosa del tutto chiara, ma pensarono che doveva essere un buon sistema. Intanto erano entrati in cucina e Pippi canterellò: «Che belle fristelle impasteremo, che belle frigelle friggeremo, che belle frangelle mangeremo». Dopodiché tirò fuori 3 uova e le gettò per aria. Un uovo le cadde in testa e si ruppe, e il tuorlo le colò negli occhi, ma acchiappò abilmente al volo le altre 2 in una casseruola dove si ruppero. «Ho sempre sentito dire che il tuorlo d'uovo fa bene ai capelli», disse Pippi, e si asciugò gli occhi. «D'ora in poi cresceranno così rapidamente che li sentirete frusciare. Del resto in Brasile tutti, ma proprio tutti, vanno in giro con un uovo tra i capelli. Questo è il motivo per il quale lì i calvi non esistono». Parlando, Pippi aveva tolto molto abilmente con le dita i gusci d'uovo dalla casseruola, staccò poi dalla parete dove stava appesa una spazzola da bagno e con questa si mise a frullare le uova, facendone schizzare un bel po' sulle pareti. Quel che si salvò venne versato in una padella che si trovava sul fuoco. Quando una frittella era ben cotta da una parte, Pippi la faceva saltare rivoltandola in aria e poi la riacchiappava. Quando era pronta la faceva volare attraverso la cucina, direttamente in un piatto posto sulla tavola. «Mangiate!» strillò Pippi tutta eccitata. «Mangiate prima che si raffreddino!» Tommy e Annika mangiarono e trovarono le frittelle veramente squisite. Poi furono invitati a passare in salotto. Qui c'era un solo mobile, un enorme comò con un'infinità di cassettini. Pippi li aprì e mostrò a Tommy e Annika tutti i tesori che vi aveva riposto. Straordinarie uova d'uccello, strane conchiglie e meravigliose pietre. Graziose scatoline, specchi d'argento, collane di perle e tante altre cose che Pippi e il suo papà avevano comperato durante i loro viaggi intorno al mondo. Pippi offrì a ognuno dei suoi compagni un regalino per ricordo. A Tommy un pugnale col manico di madreperla scintillante e ad Annika una scatolina col coperchio formato di frammenti di conchiglie. Nella scatola c'era un anello con una pietra verde. «Se andate ora a casa», disse Pippi, «potrete ritornare domani, perché se non tornate a casa, logicamente, non potete ritornare, e sarebbe un gran peccato». Tommy e Annika approvarono. Così se ne tornarono a casa, passando accanto al cavallo, che nel frattempo aveva terminato la sua avena, e uscirono dal cancello di Villa Colle. Quando li vide andarsene, il signor Nilsson sventolò allegro il cappello.